giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caso Resinovic, chiesta l'archiviazione per la procura di Trieste, non è stata uccisa, il fratello dice ci opporremo. A giudizio in appello il domenicano che uccise i due agenti in questura, accolto il ricorso contro l'assoluzione. Dietro le quinte dell'investigazione, dalle nuove tecnologie ai risvolti psicologici, a Trieste un dibattito tra gli esperti. Dalla crisi idrica a quella energetica, poca acqua, centraline bloccate. Intanto nuova centrale termica alla cartiera di Ovaro, mentre Udine riprende vita al progetto teleriscaldamento. Cabinovia di Trieste, due offerte per realizzare la controversa opera arrivano da due colossi degli impianti a fune. Banco farmaceutico, in una settimana raccolti in regione medicinali per oltre 180.000 euro. Turismo, settore trainante, ma per le guide, orizzonte incerto, da 7 anni non si fanno corsi di formazione. Spettacoli, a Udine arriva Enrico Brignano, a Gorizia lo show musicale dei Gemelli di Guidonia. Mercoledì 22 febbraio, sono le 7:19 minuti. Buongiorno da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Come di consueto apriamo con uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo da nuvoloso a coperto su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile sui monti. Temperature delle 6, a Trieste 6,5 gradi, a Udine 8,5, a Pordenone 7,5, a Gorizia 6,5 gradi. Nell'area montana a Tolmezzo abbiamo 1 grado, a Tarvisio 0, a Sappada -3, sul Piancavallo 1 grado positivo, a Forni di Sopra 0,5 gradi, sul Lussari temperature positive 4,5 gradi, così come sullo Zoncolan 4 gradi positivi, sulla costa Lignano 8,5 gradi, a Grado 8. Ed ecco le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Oggi dalla costa alle Prealpi cielo nuvoloso o coperto con foschie, più sole verso il cadore e le Alpi. Sulla fascia alpina e in quota circa cielo sereno o poco nuvoloso. Riflettori di nuovo accesi sulla vicenda di Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita nell'area del Parco di San Giovanni 5 gennaio 2022, una ventina di giorni dopo la sua scomparsa da casa. La procura di Trieste ha chiesto l'archiviazione del caso e ora sarà il GIP a decidere. Sulle ragioni esposte dalla procura in una nota si registrano le reazioni di familiari e conoscenti. Per la procura di Trieste, Liliana Resinovic, la donna di 63 anni scomparsa il 14 dicembre del 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022 nella boscaglia dell'ex ospedale psichiatrico, si è suicidata. La procura è giunta a questa conclusione dopo oltre un anno di indagini e chiede l'archiviazione del caso, caso che è stato sotto i riflettori nazionali per settimane. L'attività investigativa coordinata dal PM Maddalena Kergia in questi mesi nulla ha trascurato per l'individuazione di potenziali reati commessi a danno di Liliana Resinovic, scrive in una nota il procuratore capo De Nicolo, che specifica: esclusi la segregazione e altri reati lesivi a danno di Liliana Resinovic, c'è una sola ricostruzione. L'intenzionale allontanamento della signora dall'abitazione e l'intenzionale decisione di porre fine alla propria vita. L'esame ragionato delle complessive indagini, prosegue De Nicolo, non consente altre ipotesi, anche se non è stato possibile appurare l'esatta data della morte della donna, ovvero lo stesso giorno della sua scomparsa, oppure la decisione di farla finita l'abbia presa dopo alcune settimane, come fa a propendere la consulenza del medico legale. Per Sergio, il fratello di Liliana, sua sorella è stata uccisa. Ci opporremo alla richiesta di archiviazione, dice nell'intervista rilasciata a Chi l'ha visto, che andrà in onda integralmente mercoledì sera. Anche l'amico di Liliana Resinovic, Claudio Sterpin, con il quale Liliana sembra sarebbe dovuta andare in vacanza per qualche giorno proprio in dicembre dell'anno scorso, sostiene che dei professionisti del crimine hanno inscenato un suicidio al quale non crede. Condividono invece le conclusioni della Procura di Trieste gli avvocati Alice Paolo Bevilacqua e Vincenzo Martucci, che tutelano gli interessi di Sebastiano Visintin, marito della deceduta. La richiesta di archiviazione sarà ora esaminata dal giudice per le indagini preliminari. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo essere stato assolto in primo grado perché ritenuto non imputabile, Alejandro Stefan Augusto Meran affronterà il processo d'appello. Si tratta del dominicano accusato di aver ucciso i poliziotti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta in una sparatoria in questura a Trieste il 4 ottobre 2019. Il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Trieste ha infatti accolto il ricorso presentato dal procuratore generale contro la sentenza del 6 maggio 2022. Ora dunque si torna in aula, prima udienza il 7 aprile. A presentarsi in aula, oltre ai difensori dell'imputato, saranno anche le parti civili costituite dai parenti delle due vittime, dal Ministero dell'Interno e dall'Associazione Feriti e Vittime della Criminalità e del Dovere. Meran, 32 anni, attualmente detenuto a Verona, avrebbe dovuto essere ricoverato in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, la sigla è REMS, per almeno 30 anni, ma solo da alcuni giorni se ne è resa disponibile una in provincia della Spezia. E su tutti gli aspetti delle procedure investigative di oggi, da quelli psicologici all'utilizzo delle nuove tecnologie, si confronterà questa mattina dalle 10.30 nell'aula magna dell'Università di Trieste un parterre di esperti, tra cui il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo, il questore Pietro Ostuni e il prefetto Pietro Signoriello. Occasione dell'incontro, la presentazione del volume Investigare 4.0, curato dalla psicologa della Sapienza di Roma Anna Maria Giannini e dal vice capo della Polizia Vittorio Rizzi. A moderare gli interventi sarà l'ex rettore Francesco Peroni, che ci ha anticipato quali sono i contenuti del libro. Il volume si intitola non a caso in modo suggestivo Investigare 4.0, quindi mutua un modo di dire che attiene alle politiche industriali la suggestione dell'innovazione tecnologica e scientifica, che è infatti uno dei grandi temi che riguardano le indagini penali di oggi, che si avvalgono sempre più in modo crescente, da quanto anche apprendiamo dalle cronache di ogni giorno, di scoperte scientifiche, mezzi tecnologici, digitalizzazione. E quindi è un volume che si occupa molto di questi aspetti di avanzamento delle indagini. Insieme a questo investiga, uso sempre questa parola in altro senso, anche di nuovi fenomeni criminali, quindi reati, tipologie di reati emergenti e anche di questioni che riguardano la vittima del reato. Perché è importante un contributo del genere e qual è il pubblico a cui si rivolge? Direi che il testo, per come l'ho potuto esplorare, è fruibile anche da un pubblico non specialistico, il che non vuol dire che non sia un testo molto rigoroso. Il perché queste questioni siano importanti oggi è il seguente: benvenuti gli avanzamenti tecnologici, benvenuta la maggiore efficienza delle indagini preliminari, benvenuta la maggior tutela delle vittime del reato. C'è però un problema anche da non perdere di vista, che è quello della salvaguardia delle garanzie di chi ha processo penale sottoposto, e cioè l'esigenza di non caricare di un'eccessiva fede acritica in questi mezzi l'accertamento della verità, che nel processo penale passa anche attraverso il cosiddetto contraddittorio. L'emergenza siccità sta già limitando la produzione di energia idroelettrica, tagli anche drastici per alcune realtà che hanno dovuto fermare buona parte delle loro centraline. Va in crisi anche quest'anno la produzione di energia idroelettrica per mancanza d'acqua. Solamente tra Gemona e Rive d'Arcano, il consorzio di bonifica pianura friulana segnala il fermo di 8 centraline a causa delle forti riduzioni nella portata dei canali. Se in esercizio, potrebbero fornire energia a circa 1.500 famiglie. Una di queste 8 appartiene alla Fantoni. Il gruppo di Osoppo indica che al momento la produzione idroelettrica è dimezzata ed è già minore rispetto al 2022, anno a sua volta segnato da un meno 40% rispetto alla media storica. Solo un lungo periodo di piogge costanti potrebbe cambiare lo scenario. Alessandro Mattiussi, responsabile del sistema energia della Fantoni. Grossi eventi di elevate precipitazioni in pochissimo tempo sono in realtà peggiorativi, perché complicano molto la gestione, la manutenzione e la ripartenza poi di centrali che sono ferme da molto tempo. Ferme 2 centraline su 6 della cooperativa carnica Secab di Paluzza. Viaggia al 30% della produzione idroelettrica. Qual è stato il bilancio dell'idroelettrico dell'anno scorso, anno di siccità? Abbiamo registrato il record negativo nelle produzioni, praticamente abbiamo prodotto il 43% rispetto alle medie degli ultimi 10 anni. Produzione di energia idroelettrica dimezzata nel 2022 in Friuli Venezia Giulia per il gruppo A2A. Gestisce l'invaso del Lumiei, la maggior riserva idrica regionale. Oggi preoccupa la carenza di neve. I quantitativi d'acqua nelle riserve nivali, scrive la regione in un report, sono i più bassi degli ultimi 4 inverni. Osoppo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Intanto prosegue la ricerca delle fonti alternative ai combustibili fossili e ieri Eni ha annunciato di aver immesso per la prima volta biometano nella rete di distribuzione di Acegas APS Amga attraverso una sua società controllata, la BioChain. Questa produce a Codroipo gas da letame, scarti agricole e biomasse. A regime l'impianto produrrà circa 500 metri cubi di gas all'ora, un volume equivalente ai consumi annui di circa 5.000 autovetture, con un abbattimento di 2/3 delle emissioni di anidride carbonica su tutto il ciclo produttivo rispetto all'equivalente quantitativo di metano fossile. A Ovaro è stata inaugurata la nuova centrale termica della cartiera Remo de' Medici, storica realtà produttiva che tra qualche mese compirà un secolo di vita. L'impianto coniugherà le esigenze di efficienza e affidabilità con la riduzione delle emissioni e dei consumi. Meno acqua, meno rumore, meno CO2 in atmosfera per una produzione di 7 megawatt e mezzo. L'investimento da 9 milioni di euro rilancia anche la presenza della cartiera nel settore del packaging di alta gamma. Ascoltiamo il direttore dello stabilimento RDM di Ovaro, Paolo Bearzi. È un impianto di nuova generazione, addirittura combinato per l'utilizzo del 30% di idrogeno per il futuro. Impatti ambientali sostenibili e miglioramento dell'efficienza dello stabilimento in termini elettrici e di energia. L'utilizzo dello stabilimento è 5,5 MW come massima potenza, il nuovo impianto genera 7,5. In futuro, se necessita, potremo cedere alla rete 2,5 MW. Un investimento importante e strategico quello sulla cartiera di Ovaro, malgrado il comparto paghi ancora gli aumenti dei costi energetici e l'incertezza del mercato. Sono 110.000 le tonnellate di carta prodotta all'anno, con 170 dipendenti, più un indotto che interessa tutta la vallata. Ovaro, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Udine si rilancia il progetto per il teleriscaldamento che potrebbe sfruttare il calore prodotto dalle acciaierie Bertoli Safau. I costi preventivati però rimangono alti. C'è uno studio dell'Università Friulana già approvato e benedetto dall'Unione Europea riguardo la fattibilità scientifica, tecnica ed economica di un impianto di teleriscaldamento della città di Udine alimentato dal calore di recupero dell'acciaieria Bertoli Safau di Cargnacco, calore per ora disperso nell'ambiente, anzi dissipato in alte torri a fianco dello stabilimento. Potrebbe, secondo lo studio, riscaldare grandi volumi d'acqua da immettere in una rete di teleriscaldamento che, partendo dall'acciaieria di Cargnacco, raggiungere prima i quartieri sud-ovest della città per poi estendersi verso nord. Un progetto ad alta sostenibilità che dribblerebbe l'incerto mercato di approvvigionamento del gas, riducendo costi e impatti ambientali. Secondo i tecnici del Dipartimento del Politecnico di Ingegneria e Architettura di Udine, e siamo alle note dolenti, servirebbero però perlomeno 90 milioni di euro ammortizzabili in 7 anni per realizzare gli impianti di captazione e un'estesa rete di distribuzione da collegare non solo alle utenze pubbliche ma anche ai privati, che potrebbero così dormire sonni più tranquilli senza l'incubo del caro bollette. Una spesa a cui potrebbero venire incontro i fondi del PNRR e altre provvidenze europee. Si sta già lavorando ad una cordata di soggetti pubblici e privati da affiancare tecnicamente e finanziariamente all'ABS, soprattutto per quanto riguarda la costruzione della rete e la distribuzione del calore. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. MSC, colosso della navigazione da 2 miliardi e mezzo di fatturato, sale dal 50 all'80% delle quote nella proprietà di Trieste Marine Terminal, che gestisce il Molo Settimo, il principale terminal container dell'Alto Adriatico. Il via libera dell'antitrust certifica l'intesa con il gruppo TO Delta, che scende al 20%. E sono arrivate da due tra le maggiori aziende specializzate nella realizzazione di impianti a fune, l'austriaca Doppelmayr e l'alto atesina Leitner, le offerte per la gara della cabinovia di Trieste. L'appalto vale oltre 60 milioni, ma non si placano le polemiche sull'approvazione della variante al piano regolatore in consiglio comunale. Il comitato Novo Via conferma il ricorso al TAR e da oggi, per 3 giorni, stasera al Teatro Miela, terrà dei banchetti per ringraziare donatori e sostenitori. Sono arrivate al Comune di Trieste due offerte per la realizzazione della cabinovia urbana che collegherà il Porto Vecchio con il Carso, con la stazione di arrivo che si realizzerà in prossimità del quadrivio di Opicina. Si tratta delle offerte concorrenti delle aziende Leitner e Doppelmayr, colossi mondiali nella realizzazione di impianti a fune. La gara prevede che per i 62 milioni di euro vengano realizzati i progetti definitivo ed esecutivo, l'impianto, le stazioni di partenza e arrivo con il parcheggio. Un'infrastruttura finanziata con il PNRR che continua a dividere l'opinione pubblica triestina e il Consiglio Comunale. La convalida di adozione della variante del piano regolatore è stata quindi approvata con 19 voti favorevoli della maggioranza, uno astenuto e uno contrario. Tra due settimane sarà pubblicata sul BUR e quindi ci saranno 30 giorni di tempo per le osservazioni. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Durante la settimana di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico, alla quale hanno aderito in Friuli Venezia Giulia quasi 200 farmacie, sono state raccolte più di 22.000 confezioni di medicinali, pari a un valore di quasi 184.000 euro, che contribuiranno a curare 12.000 persone aiutate da 86 realtà del territorio regionale. Il consuntivo nazionale dice che sono state donate poco meno di 600.000 confezioni di medicinali per un valore superiore ai 5 milioni di euro. Si aprirà oggi alle 9 alla sede del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste il workshop Scienza Alimentazione Sostenibile, come gli strumenti scientifici possono aiutare ad affrontare le problematiche del cibo e della biodiversità per la salute del pianeta e dei suoi abitanti. Un convegno di due giorni a cui parteciperanno scienziati da tutto il mondo che si confronteranno sulle sfide che deve affrontare il settore agricolo nel mondo di oggi. Ne abbiamo parlato con uno degli organizzatori, il fisico Stefano Fantoni della Fondazione Internazionale Trieste. I temi che affronteremo sono sostanzialmente due, diciamo. Un tema di come gli strumenti scientifici, cioè le metodologie scientifiche, possono aiutarci nel chiarire, nel capire tutte le problematiche del cibo sostenibile e della biodiversità. Noi abbiamo l'impressione che l'uso delle metodologie scientifiche possano aiutare nel comprendere queste problematiche. Il secondo tema ha a che fare direttamente con la salute e quindi come alimentazione sostenibile e salute si intersecano tra di loro e in che modo un laboratorio che si occupa di proprio di sostenibilità e di gestione dei dati può aiutare in questo. Perché discutere di questi aspetti nel contesto dell'Istituto di Fisica Teorica? Questo è il secondo evento di questo laboratorio. È un laboratorio che è sotto l'egida della Fondazione Internazionale Trieste, che è una fondazione che connette vari temi scientifici. Siamo usciti dal nostro cappello per cercare di essere il più interdisciplinari possibile. Noi crediamo che sia possibile e comunque doveroso cercare delle strutture fondamentali della sostenibilità, cioè la sostenibilità è certamente misurata e vista in molti aspetti della vita e della società, ma la domanda è: ma ci sono delle strutture fondamentali di tutte queste manifestazioni, così come avviene per la complessità, tanto per intenderci. Se questo è vero, io credo che chi ha lavorato nella disciplina della fisica teorica possa aiutare. Sophie e Hans Scholl, i due fratelli tedeschi membri del movimento di resistenza antinazista della Rosa Bianca, assassinati nel febbraio 1943, saranno ricordati oggi a Trieste con una cerimonia nel Museo della Risiera di San Sabba alle 17. Fascismo di confine è il titolo della conferenza della storica Anna Maria Vinci dedicata all'operato del regime fascista in queste terre e in quelle acquisite dall'Italia dopo la Grande Guerra e in particolare ai modelli di italianizzazione e o snazionalizzazione nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato fascista, al Circolo della Stampa di Trieste alle 17.30. La tragica fine di Guido Alberto Pasolini, fratello minore di Pierpaolo, avvenuta nella zona di Bosco Romagno tra Cividale e Gorizia nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, fu il tremendo epilogo dei fatti accaduti nei pressi delle Malghe di Porzus. La vicenda è ricostruita in un volume di Paolo Strazzolini, appena riedito, si intitola Da Porzus a Bosco Romagno e sarà presentato dall'autore questa sera a San Daniele alle 18 alla Biblioteca Guarneriana. Un incontro con la memoria attraverso i ricordi di chi ha vissuto il dramma della Seconda Guerra Mondiale e dell'esodo istriano Giuliano Dalmata. È quello al centro del docufilm Volti della Memoria di Isabel Rusinova e Rodolfo Martinelli Carraresi, che sarà proiettato stasera alle 18 alla Sala Luttazzi del magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Quale futuro per la professione di guida turistica? A giudicare dai corsi di formazione, zero negli ultimi 7 anni in regione, le prospettive sono quantomeno complicate, ma si torna a riflettervi in coincidenza con le giornate dedicate a questo importante lavoro. Quello della guida turistica è un mestiere a prevalenza femminile, fatto di rispetto per il patrimonio, competenza e propensione per l'incontro con i visitatori. Per festeggiare la giornata internazionale della guida turistica sono in programma per domenica 26 febbraio tante visite guidate gratuite a Fogliano, Grado, Aquileia, Trieste, San Pietro al Natisone, Pordenone e Spilimbergo. I dettagli si trovano sulla pagina Facebook Giornata Internazionale della Guida Turistica. Da 7 anni però non si organizzano più corsi di formazione abilitanti alla professione. Francesca Pitacco, presidente dell'Associazione Guide Turistiche del Friuli Venezia Giulia. Siccome l'ordinamento italiano e il Ministero sta revisionando l'accesso alla professione, non ci sono corsi per diventare guida turistica che di solito vengono banditi dalla Regione, almeno dal 2016. Alessandra Fogar, responsabile prodotto cultura di Promoturismo FVG. Le guide turistiche sono il valore aggiunto dell'offerta culturale e turistica della regione, lo dimostrano anche il successo che hanno avuto le visite guidate all'interno della mostra Banksy, che sono state universalmente riconosciute dal pubblico che ha visitato la mostra come un plus del servizio offerto. Per inseguire un pubblico sempre più esigente negli Stati Uniti sono nate le guide turistiche con gli sci. Un giorno le avremo anche in Friuli Venezia Giulia? Marzia Arzon, guida turistica. Sicuramente, forse, chissà, un comprensorio magari transfrontaliero, non lo sappiamo, magari, questa potrebbe essere un'idea. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si va verso la fine delle manifestazioni carnevalesche. A Monfalcone è stato l'ultimo testamento di Orlando Manfrini nelle vesti di Sio Ranzoletto, congedo volontario per limiti di età per lo storico protagonista della cantada, che sotto il municipio è stato salutato da un lunghissimo applauso. Poi la sfilata dei carri davanti a migliaia di persone e il successo di Medeazza e San Giovanni di Duino. Il Palio di Trieste, con la sfilata in centro, è stato vinto dal Rione di Valmaura, che nella classifica ha preceduto quello di Roiano. Oggi delle ceneri si chiudono i festeggiamenti a Muggia in piazza Marconi dalle 16 la veglia funebre delle vedove inconsolabili e i solenni funerali segneranno poi la chiusura del 69esimo carnevale muggesano. E a Gorizia la cerimonia del funerale di Re Carnevale partirà dalle 14:30 con l'esposizione davanti al municipio, a cui seguirà la partenza verso San Rocco, dove alle 16:45 ci saranno la lettura del testamento e la cremazione nell'area della sagra nei pressi dello stadio Baiamonti. Alla conclusione, il goliardico corteo funebre si avvierà verso Piazza del Municipio, dove verrà dato l'ultimo saluto ufficiale a Re Carnevale, prima di ripartire verso il castello, dove le sue ceneri verranno disperse dai bastioni. Come molte attività all'aperto, il dopo pandemia registra il rilancio delle attività scoutistiche. A Pordenone, per esempio, i gruppi per i più piccoli sono esauriti e ci sono lunghe liste d'attesa per iscriversi. Ma nella fascia oltre i 12 anni c'è stato invece il crollo delle iscrizioni e i ragazzi, spesso già a quell'età, escono dall'associazionismo. Prova a spiegarlo Daniele Boltin, capo scout e referente del Movimento di Volontariato Italiano. Il mondo scout si può comunque definire un'isola felice, nel senso che al momento sono tanti bambini che partecipano, quando crescono i ragazzi diventa questo il problema. Adesso al di là di tutto c'è un po' di difficoltà di partecipazione nei capi, comunque lo scoutismo è un tipo di servizio che richiede molto impegno e molto tempo. È una cosa che poi vediamo anche a livello sociale, ad esempio in regione il Movi in tutte le province organizza il progetto Prove Tecniche di Volontariato e con le quarte superiori cerchiamo di far conoscere ai ragazzi il mondo della partecipazione. Il problema è che, a parte progetti e professori che si immolano anche per far scoprire nuovi mondi ai ragazzi, manca un po' un'alleanza educativa con le famiglie. In una società molto disgregata come quella di oggi, le famiglie tendono a non far parte della comunità e quindi quando manca questo è molto difficile poter andare avanti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste, seconda giornata del Festival Tartini, cartellone di eventi in omaggio al genio piranese del violino. Al conservatorio che porta il suo nome, nel pomeriggio alle 16, saranno presentati i tre volumi di un corposo studio curato dalle Università di Padova e Lubiana e dal Centro di Documentazione e Studi Tartiniani. Nell'occasione sarà illustrata un'ulteriore ambiziosa iniziativa editoriale, la pubblicazione integrale dell'opera di Tartini che la casa editrice Bärenreiter prevede in 25 volumi. E stasera il festival propone alle 20:30 un concerto aperto al pubblico, tutto dedicato a Tartini e ad autori coevi, il programma che sarà eseguito dall'ensemble Aurora, quartetto d'archi di prestigio. Tra musica, storia e costume, il doppio appuntamento di oggi a Cinema Zero di Pordenone e domani al Visionario di Udine, la proiezione del documentario di Giuliana Muscio dedicato a Enrico Caruso. Caruso fu il primo cantante della storia a vendere 1 milione di dischi con l'aria Vesti la giubba dall'opera Pagliacci e fu uno dei grandi fenomeni mediatici dei primi del Novecento, contribuendo anche a cambiare la percezione degli emigrati italiani negli Stati Uniti. A questo aspetto Giuliana Muscio ha dedicato anche un libro dal titolo Napoli, New York, Hollywood, pubblicato da Audino. A Udine questa sera l'unica tappa in regione di Ma diamoci del tu, lo show del comico Enrico Brignano. La data al Teatro Nuovo era sold out già prima di Natale, a conferma dell'attesa. Attesa peraltro condivisa dall'attore dopo il lungo tempo delle restrizioni, che lui racconta così. Il palcoscenico è casa mia. Per tanto tempo questo palcoscenico, le tavole del palcoscenico, la polvere del palcoscenico mi è mancata. Per tanto tempo, tanto troppo, 700 giorni circa sono stato costretto a casa come tutti noi. Due anni non te li dà più nessuno, ma nemmeno rapina a mano armata, ma devi insomma 2 anni così, stai sempre a casa, devi stare a farli a casa. Ecco, dopo 2 anni a casa, chiuso in pigiama, io sul divano mi stavo recitando addosso. Davvero, mi scappava la gag. Comicità e gag anche a Gorizia con i gemelli di Guidonia che proporranno al Teatro Verdi il loro spettacolo 3x2. È stato Fiorello a battezzarli gemelli, ma in realtà sono fratelli, tutti nati a Napoli. Pacifico, Gino ed Edoardo Acciarino, cantanti, musicisti, speaker radiofonici e comici, propongono canzoni, imitazioni e tanti dei personaggi della loro trasmissione di successo su Rai Radio 2. Ancora musica, un super quintetto sarà questa sera protagonista dell'appuntamento al Miela di Trieste per Cromatismi 2.0, la stagione dell'associazione Chamber Music. Saranno di scena il trio Johannes, ovvero Francesco Manara, primo violino dell'orchestra della Scala, Massimo Polidori, primo violoncello, sempre alla Scala, e il pianista Claudio Voghera, in questa occasione affiancati da Simonide Bracconi, prima viola alla Scala, e dal contrabbassista Paolo Borsarelli. Nel programma musiche di Haydn, Mahler e una composizione dello stesso Bracconi prima della conclusione con il quintetto Di Forelle di Schubert. Per il cinema, dopo Resina e Take Away, il regista friulano Renzo Carbonera torna nei cinema con Pluto, lungometraggio distopico in cui un uomo, interpretato da un intenso Andrea Pennacchi, trova rifugio tra le montagne in mezzo ad alcuni resti delle varie guerre mondiali combattute negli ultimi 100 anni. Sta scappando da qualcuno o sta compiendo una missione? Dai suoi ricordi e dalle sue visioni, in una spirale che mescola realtà e follia, affiora la storia del rischio atomico negli ultimi 70 anni e il motivo della sua vita ai margini dell'umanità. Carbonera presenterà il suo nuovo film al pubblico del Cinema Visionario di Udine questa sera alle ore 20. La pagina dello sport, fra una decina di giorni la partita APU Old Wild West Gesteco, il derby della 2 di basket. Oggi si aprono le prevendite per la partita di ritorno e per la pallamano sarà disputata al Palazzurri di Via Calvola la partita di sabato 25 febbraio fra Trieste e Appiano, valida per il campionato di A2. La nuova collocazione è stata determinata dall'indisponibilità del Palasport di Chiarbola. La partita fra i biancorossi, secondi in classifica, e gli altoatesini che guidano la graduatoria comincerà alle 19, ma ancora non si sa quanti spettatori potranno accedere all'impianto per questo big match. Per il volley di A2 femminile, impegno infrasettimanale per la CDA Talmassons, che alla Tisana ospita l'imbattuta capolista Roma. Inizio alle ore 20:30. 7:47 minuti, siamo alla rassegna stampa, cominciamo con il piccolo, edizione di Trieste, prima pagina divisa tra temi internazionali e cronaca locale, scontro Zelensky-Berlusconi, il titolo della metà alta della prima pagina su una foto dell'incontro di Giorgia Meloni a Kiev. La premier incontra il presidente ucraino, mentre a distanza questi polemizza con il leader di Forza Italia. L'altro titolo forte sulla vicenda Resinovic, Lilli non è stata uccisa e la richiesta di archiviazione della procura. Poi il carnevale locale con la vittoria di Valmaura nel Palio, c'è una fotonotizia e tra gli altri richiami della cronaca locale le offerte per la realizzazione della cabinovia e un allarme per i 130 dipendenti della Caritas che per ritardi burocratici, scrive il piccolo, non ricevono lo stipendio. Sotto la fotonotizia sul viaggio di Meloni in Ucraina, il Messaggero Veneto di Udine titola sul raddoppio dei permessi per la legge 104. In 3 anni i lavoratori che assistono i parenti fragili sono passati da 2.200 a 5.600. A centropagina un'altra fotonotizia è dedicata all'allarme siccità con i fiumi in secca. A sinistra il richiamo a un'intervista al presidente regionale. Economia e sanità nel piano di Fedriga. Lavoreremo bene, no a promesse facili. In taglio basso un richiamo all'economia. Costi alle stelle, anche il gelato sarà più caro. Le pagine della cronaca cittadina titolano invece sul nuovo negozio Despar in centro a Udine, che aprirà a marzo in via Battisti. Ha quasi la stessa composizione la prima pagina dell'edizione di Pordenone del quotidiano. A cambiare è il richiamo in basso, dedicato al premio America Giovani, Stati Uniti conquistati dal talento di Alessandro, pordenonese laureato in scienze politiche. Ci sono poi 2 richiami a notizie di cronaca. Lite fra clienti al bar, la polizia lo chiude per 2 settimane e degrado al Palasport, 3.000 posti e un'occasione persa. Notizia questa con cui si aprono anche le pagine di cronaca cittadina. Una storia di tariffe rivedibili, incassi mancati e una città che fatica a crescere. Il piccolo, edizione di Gorizia, apre sempre sulla vicenda Resinovic. Nelle pagine della cronaca isontina il quotidiano segue la campagna verso il 2025. C'è grande interesse delle agenzie turistiche per l'appuntamento della capitale della cultura, la città e Nova Gorizia cominciano ad entrare in diversi pacchetti. Nella cronaca di Monfalcone ampio spazio al carnevale con il testamento di Soranzoletto, il congedo di Manfrini e la sfilata alla quale hanno partecipato, scrive il quotidiano, 30.000 persone. In 5.000 erano invece i giovani presenti alla cavalchina bisiaca. Il dorso di Pordenone del Gazzettino apre con questo titolo: fusioni, i comuni contro le città, l'attacco della montagna, le unioni si possono fare in pianura, gli sprechi dei grandi centri finanzino i paesi. A centropagina una fotonotizia dedicata all'Ibis di casa ad Aviano che sorveglia la base. Il volatile è fuggito dall'oasi di Fagagna. Un altro titolo è sulla cronaca: la procura chiede di archiviare il caso di Ilaria Candido, travolta e uccisa da un furgone dopo il lavoro. C'è spazio poi per un richiamo a Pordenone che vuole un treno diretto per l'aeroporto, mentre il taglio basso è dedicato allo sport, con il Pordenone Calcio che lancia l'operazione sorpasso al Feralpi Salò e la Tinet Prata di pallavolo che contro Ravenna si gioca ai play-off. Sul dorso di Udine, sempre del Gazzettino, a cambiare è il titolo a centropagina, dedicato in questo caso all'aumento di permessi in base alla legge 104, mentre la fotonotizia è sulle piazzole per l'elisoccorso che in regione diventano 78. Le notizie di sport in basso sono sull'Udinese, problema difesa e Bosse ha finito la stagione, e sulla biatleta Lisa Vittozzi, regina di Sappada, emozioni e felicità. Chiusa la rassegna stampa, parliamo adesso di elezioni. 2-3 aprile, voto regionale in alcuni comuni, sentiamo queste indicazioni. Domenica 2 aprile dalle 7 alle 23 e lunedì 3 aprile dalle 7 alle 15 si vota per l'elezione del presidente della regione e per il rinnovo del consiglio regionale, oltre che per 24 comuni. I partiti e i gruppi politici, ad esclusione dei casi di esonero previsti dalla legge, devono raccogliere le firme per poter presentare liste e candidature. Per le elezioni regionali, le candidature devono essere depositate a Udine, presso la sede della regione, dalle ore 8 alle ore 20 del 25 febbraio e dalle ore 8 alle ore 12 del 26 febbraio. Per le elezioni comunali, le candidature devono essere depositate presso le segreterie dei comuni dalle ore 8 alle ore 20 di lunedì 27 febbraio e dalle ore 8 alle ore 12 di martedì 28 febbraio. Maggiori informazioni sulle elezioni regionali e comunali sono disponibili sui siti regione.fvg.it, rai.it e sulle pagine di Televideo. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 la rubrica in friulano parlerà della riserva naturale regionale del lago di Cornino e del progetto di conservazione del grifone. A seguire, a volo radente, presenterà il CSP, documento che attua in regione il piano strategico della PAC 2023-2027 e poi del progetto Tagghiamo la scuola Friuli Venezia Giulia, promosso dal Comitato Regionale della Federazione Rugby. A Tor Viscosa, infine, conosceremo la storia di uno studente locale che è riuscito a ricostruire la propria città su uno dei videogiochi più famosi e diffusi al mondo. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Daniele Lettig e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico Tommaso Vinoni e Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Sono le 7.53, ora linea l'Onda Verde regionale, ci risentiamo più tardi con altre informazioni, ma vi ricordiamo che l'informazione della TGR prosegue sui social e sul web. A tutti grazie per la vostra attenzione e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.